Fluo, posata immobile sulla sua rupe, bagnata attorno dal fiume verde, quasi nero, che scivolava via col suo moto infinito e si gonfiava a volte solo in primavera, fino a coprire le case disposte sulle sue rive, basse, sotto la città. La città era muta con la sua faccia di pietra. La città scorreva pigra e tranquilla. Quando, come tutte le domeniche mattina, mi recavo a quello che oramai veniva definito il portaportese dei rumeni, dove riuscivo ad incontrare ogni mattina, ogni domenica, i monchi gettati lì da una parte che chiedevano elemosina, e tutti i venditori che gridavano calzini, roba usata, usata male. La città e la sua faccia di pietra mi avvolgeva, oramai completamente indifferente, oramai completamente indifferente, oramai completamente indifferente, oramai completamente indifferente, oramai completamente indifferente. Meno male che ogni tanto arrivava l'eco della notizia, la bomba mediatica, un attentato che sconvolgeva la corsa di maratona, che tagliava le gambe alle persone che aspettavano, alle persone che correvano incontro, alle persone che venivano mutilate. Ogni tanto scorreva un po' di sangue giallastro su queste pagine macchiate di china, su questa vita maledettamente underground. Mentre continuavo a chiedere l'elemosina, oramai privo di tutte e due le braccia, mentre avevo già imparato a fare panini e a venderli oramai scotti e sciapi, mentre tutto quanto intorno a me mi avvolgeva con la sua faccia di pietra, mentre tutto quanto intorno a me scorreva placidamente come acido muriatico usato per sfregiare questa bellezza eterna, questa bellezza eterna. Mentre giovani prostitute si avventavano su ignoti e ignari clienti, e dalle macchine parcheggiate si riversava una massa di effetti speciali, fumi variopinti, effetti speciali, fumi variopinti. Thank you. non sono passate in vano le memorie, la memoria non passa mai in vano, al limite passa in tre vani, uno costituito dall'attesa, il secondo dal ricordo, il terzo dalla speranza. La memoria non passa mai in vano, in questa città di pietra, senza occhi, che oramai mi abbraccia e cerca di soffocarmi, o al limite, se proprio non riesce ad uccidermi, di rubarmi il portafoglio. I cessi sono otturati, i centri sociali non bastano più, gli spazi sono tarpati, le falene sono troppo brutte anche per un animalista. Nessuno mangia più carne, tutti mangiano vegetazione, e i maiali dai recinti guardano un esercito sterminato di vegani che mangia al loro posto, mangia la soia. Il maiale guarda chi mangia la sua soia e pensa: cazzo, sono fottuto, non c'è più vegetazione, cosa mangerò domani? Sono un maiale. Grunge. C'è tempo in cui intere popolazioni si ribellavano ai loro governanti. Vestirsi nella solita esatta identica maniera monotona, monotona. E vennero altri tempi ancora, e vennero altre mode, vennero altri sistemi. I figli di coloro che si erano ribellati piangevano, piangevano e si disperavano per avere un paio di scarpe del dio Nike, del dio Nike. E non sentirsi più così diversi dai loro compagni. Coniglio nazionale. Vatico!